cel, pargul divin, mite anel, o redentor, tu che hai vatida lungi sognar, tu che angeliche voci nunziar, astro del ciel, pargol divin, mite agnello redentor, tu di stirpe regale decor, tu virgine sleep.